Righto. Il sole sta per tramontare, dei bimbi corona gioca, visi che sorridono ed io son qui con le mie lacrime così. Con la ricchezza io potrei comprare quello che vorrei, non la gioia semplice, perciò son qui con le mie lacrime così. Il sole sta per tramontare, un altro giorno se ne va, tutti si divertono ed io son qui con le mie lacrime così.